avanti. Chissà chi sei e tu sai chi sei. L'età e le sue attenuanti e cambi per la testa e cuore come fossero serpenti. Decidi chi sei, non scherzare. Ma di quello che senti dentro cosa ne sappiamo noi? Per gestire l'apparenza